voce. Valerio Aprea legge La ricreazione è finita di Dario Ferrari. Anno 1. Le cose. Per prima cosa, però, la barba. I simboli sono importanti e quindi mi pare il caso di far debuttare questo nuovo anno, il 2017, con un gesto radicale che segni la cesura tra il prima, in cui ero un post-adolescente attempato e irrisolto, e il dopo, in cui sono un ricercatorino in erba. E quindi il gesto con cui voglio incominciare quest'anno, in cui inizia ufficialmente il mio dottorato, è radermi. Saranno 5 anni che non lo faccio, e non solo ormai nemmeno mi ricordo più com'era la mia faccia sotto quella coltre di pelo, ma probabilmente dall'ultima volta è così cambiata che posso a buon diritto dire che nessuno l'ha mai vista. E il primo a vederla sarà Fedè, il barbiere ottuagenario di via Coppino, cui né l'età né gli ettolitri di alcol dozzinale sono riusciti a togliere saldezza alla mano, acutezza alla vista e vividezza alle bestemmie. Prende 7 euro per la barba e 15 per barba e capelli. Non richiede prenotazioni, non emette ricevute e non c'è verso che ti faccia uscire dal suo bugigattolo senza averti insultato la mamma. Mentre sto seduto a occhi chiusi a gustarmi quest'operazione di simbolico rinnovamento esistenziale, mi sforzo di godere di ogni particolare. Godo pensando che per 3 decenni, ogni giovedì, Fedè ha fatto la barba a mio nonno, da quando si è trasferito in darsena alla fine degli anni 70 a quando ci è morto un attimo prima che scoccasse il nuovo secolo. Godo pensando a mio padre, che invece si è sempre fatto la barba da solo con quell'indecente rasoio elettrico a 3 testine, godo sentendo gli odori che mi circondano, che non sono quelli dei barbieri alla page, ma l'effluvio di armadio della nonna che promana dal telo che mi ha messo al collo, l'odore di fumo stantio delle 200 merit al giorno che Fedè lascia bruciare sul posacenere e l'aroma acre dei dopobarba del Novecento, sostanzialmente alcol etilico tagliato con qualche essenza. Già so che dovrò faticare a trattenere le lacrime quando me lo getterà generosamente sulla pelle resa ipersensibile dalla rasatura. I 2 pensionati che stazionano in permanenza da Fedè commentano la pesca delle anguille cee, di cui Fedè è uno dei ras locali, e fanno la conta dei conoscenti che hanno seppellito. Poi, immancabilmente, il discorso cade sulle femmine. Io perdo istantaneamente interesse, pensando che difficilmente quei 3 ottantenni, anche nell'era del Chalice, possano aprire qualche prospettiva interessante sull'argomento, che peraltro mi pare già universalmente sviscerato. «Te che dici, bimbo?» sento dire a un certo punto a uno dei 2 avventori. «Parla con me e io non so cosa dire». «Come?» «Qualcuna ti garberà, no?» «È fidanzato», interviene Fedè, «con la figliola piccola del briganti, la Letizia». «Il briganti, il falegname?» «Lui». «Bravo, bimbo», interviene il secondo vecchio. «Ti sei accasato bene? A lui lì i soldi non gli manchino di certo». «Vero, sono fidanzato. Vero, la mia ragazza si chiama Letizia. Vero, mio suocero è una specie di magnate del legno, un mago del mobilio su misura, osannato dalla cantieristica locale che costruisce yacht da 60 metri vendendole a decine di milioni di euro a emiri arabi e gerarchi russi. Il punto è: come cazzo fa a saperlo Fedè che in teoria non dovrebbe avere nemmeno idea di chi sono io. Per fortuna, prima di essere costretto a intervenire nella discussione dei pensionati, Fedè mi toglie il camice e l'imbarazzo. Mi guardo allo specchio e ho una piacevole sensazione che conferma le mie aspettative. Sono davvero un uomo nuovo, irriconoscibile e pronto a lanciarmi verso orizzonti inesplorati. Immediatamente dopo, a rimorchio della prima, mi si affaccia alla coscienza una seconda sensazione, la cui intensità mette in ombra la precedente. La mia faccia, imberbe, pare il culo di un neonato e forse sarebbe stato più saggio tenerla coperta. Sei uguale spiccicato a tuo padre. È la prima cosa che mi dice Letizia appena mi vede, quando la prendo alla stazione di ritorno dall'università. Evidentemente, senza rendersi conto del trauma che mi provoca, dicendo che sotto la mia barba pluriennale si nascondeva a tradimento mio padre, quasi pendesse su di me la condanna a diventare lui un giorno, al di là di tutte le barbe e le strategie che userò per dirazzare. Io non replico, come fossi offeso. Ho qualche anno più di lei e voglio credere che questo mio contegno, vagamente distaccato, in qualche modo le confermi che tra noi esiste una distanza, che il mio essere maschio, quasi adulto, a tratti sfuggente o tormentato, possa in qualche modo accrescere il mio fascino. Lei mi lascia sbollire un attimo, poi comincia a raccontarmi in dettaglio cosa ha fatto tra lezioni e reparto. Letizia ha un talento naturale per la narrazione e una loquela invincibile. È una delle cose che mi sono piaciute subito di lei, che mi evitasse i lunghi silenzi imbarazzati a cui mi avevano sempre costretto le mie relazioni con l'altro sesso. Ci sono quelli che parlano, quelli che stanno in silenzio, ma gli va bene così, e quelli che stanno in silenzio ma soffrono. E io appartengo a questa terza categoria, per cui una fidanzata dall'eloquio infaticabile è il mio unicorno. In più è giovane, ricca e studentessa di medicina, il miglior acchiappo immaginabile, talmente perfetta che quando eravamo ancora nella fase iniziale della nostra relazione, quella in cui ci si lascia prendere da irragionevoli entusiasmi e si cerca di apparire un po' meglio di quello che si è, ho preso a chiamarla Goldilocks, come riccioli d'oro, ovvero perfetta così. Talvolta, tuttavia, ho la sensazione che il suo essere così inappuntabile sia una specie di biasimo indiretto nei confronti della mia vita senza verso, e allora quella che fino a un attimo prima era Goldilocks assume le sembianze del grillo parlante. La differenza tra i due personaggi che Letizia incarna alternativamente non dipende quasi mai dalle sue azioni reali e nemmeno dal suo atteggiamento nei miei confronti, ma solo dall'effetto che mi fa in un determinato momento vederla sempre così perfettamente centrata. Oggi, per esempio, nonostante l'uscita infelice sulla barba, sono di ottimo umore e Letizia è decisamente in versione Goldilocks. Una riccioli d'oro che mi sta facendo un minuzioso resoconto della sua giornata, e io rifletto che se ascoltassi il 30% di quello che dice, la conoscerei davvero bene. E invece lei parla e io penso al fatto che domani vedrò per la prima volta tu per tu il chiarissimo professor Raffaele Sacrosanti, cui dovrò presentare il progetto di ricerca che definirà i prossimi 3 anni della mia vita. Letizia intanto sciorina nomi, espone eventi, vivisezione relazioni, riporta stralci di conversazioni, vaglia progetti. La sua voce mi culla come una musica di sottofondo, abbastanza gradevole da tenerla accesa, ma non abbastanza da concederle la piena attenzione. stiamo insieme da anni. L'ho acciuffata l'estate della sua maturità, prima che andasse all'università e si trovasse un chirurgo in erba, il classico Übermensch, studente di medicina, e non ci siamo più lasciati. Io, in teoria, dovrei essere il suo primo fidanzato degno di tale nome. E questo, unito alla lunga durata, ha reso la nostra relazione un fatto quasi naturale, come il passaggio delle stagioni o il ciclo mestruale, che sarebbe assurdo mettere in discussione. Letizia, poi, è una ragazza molto solida. La studentessa prima della classe, tutta concentrata a prendere voti astronomici, a laurearsi in 6 anni e 1 minuto e specializzarsi in oncologia, probabilmente immaginando che sia una specie di livello premium della medicina, e questo spiega perché non ha alcun interesse a investire grosse energie nella sua vita sentimentale. Mario Tobino dice che le ragazze viareggine non sono sensuali, sono felici e forti. È possibile che si tratti di una generalizzazione approssimativa, però bisogna riconoscere che è un ritratto pressoché perfetto della mia fidanzata. Non essendo molto interessata alla sensualità e ai sentimenti in genere, il fatto di aver risolto la questione amorosa riempiendo la casella con un fidanzato fisso e di lungo corso le deve sembrare la quadratura del cerchio. Per questo si accontenta di quello che le do io, che oggettivamente è molto poco. Sarò il futuro marito spiantato che non la metterà mai in ombra, il padre affezionato e non troppo impegnato che le darà dei figli e li accudirà, e per il momento sono il compagno con cui, possibilmente senza interferire con gli impegni accademici o con il Pilates, uscire il sabato, fare qualche weekend in giro e fare occasionalmente l'amore. Niente di che, questo amore che facciamo. Non è mai stata un'esperienza da strapparsi i capelli, nemmeno all'inizio. Per quanto mi riguarda, il sesso è sempre stata una cosa che, quando non la potevo praticare, mi sembrava che la vita non valesse la pena di essere vissuta, ma che poi, nei periodi in cui l'ho avuta a portata di mano, ho sempre pensato che tutto sommato ne avrei potuto tranquillamente fare a meno. Certo, il sesso con Letizia a tratti è piacevole, ma per lo più è un'attività piuttosto marginale nel nostro rapporto e nelle nostre vite. A lei credo interessi molto poco in generale. Immagino che le piaccia più l'idea disincarnata di fare l'amore che l'atto sessuale vero e proprio, e quindi il nostro erotismo si esaurisce per lo più al sesso orale, nel senso che ne parliamo spesso e lo facciamo di rado. Quanto a me, confesso che tutta la faccenda del sesso mi pare un po' ridicola. Tutti i gesti, le smorfie, i rantoletti, i gemitini, le lingue nelle orecchie, l'eccesso di saliva, il sudore d'estate e le mani gelide d'inverno, le sconcezze biascicate, la finzione che gli organi genitali siano belli, mi sembra tutta una goffa simulazione. Ma te, sei carico per domani? Le sento domandare a un certo punto. In che senso? Per sacrosanti. Devi vederlo domani, no? Non riesco a smettere di essere impressionato da come, sebbene io nemmeno mi ricordi di avergliele dette certe cose, Letizia sappia sempre tutto. Sono carico, le rispondo. Bene, fammi sapere. Poi mi dà un bacio a stampo sulle labbra, mi saluta, scende dalla macchina e fila via verso i suoi impegni inderogabili. La osservo allontanarsi e per un attimo la sua stabilità, la sua inscalfibile centratezza mi rinfranca dalla sensazione di essere irrisolto e costantemente in balia degli eventi, anche se continuerò a non sapere che fare di me. Senz'altro lo saprà lei, e con una sicurezza che non ammette repliche.